Sono le 21 e 10 minuti. Rockwave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Deinese, siamo live naturalmente, è un orario strano, un inizio anche strano, abbiamo avuto qualche problema di feedback, sono cose che succedono quando lo studio è attrezzato per avere della musica dal vivo, che è appunto il piatto forte di questo appuntamento speciale con Rockwave. Con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera a tutti, un avvenimento straordinario stasera, lo scettro del conduttore stasera ce l'ha Stefano, giustamente, perché abbiamo un ospiti straordinari stasera. Sì, dunque sono dei musicisti che vengono dall'Irlanda, dei musicisti che hanno una lunga storia alle spalle, che ci racconteranno e che da un po' di tempo hanno unito le loro forze per creare una nuova band, un trio che si chiama Audio Kiss, e hanno appena pubblicato il loro primo album sulla lunga durata, intitolato Really Kind of Moving, e questa sera ce lo presenteranno suonando in acustico qui nei nostri studi in diretta naturalmente. Poi avremo tempo e modo di parlare con loro della loro musica, della loro storia, della loro bellissima isola naturalmente, perché l'Irlanda è un posto che per gli appassionati di musica ha sempre avuto un qualcosa di magico, ed è sempre bello poter avere delle testimonianze dirette da qualcuno che ci vive, che c'è nato. I musicisti in questione sono Siobhan Mahon, penso che la pronuncia sia giusta, nome okay. Gaelico, è un po' complicato, Jack Dublin e Robert Campbell. Rispettivamente sono la voce solista, sentirete una voce stupenda degli Audio Kiss, la chitarra e vari altri strumenti, e il batterista, che questa sera non suona perché non abbiamo la batteria in studio, ma che ha una parte molto importante nella band, essendo l'autore praticamente di tutti i brani. Allora, per cominciare questo appuntamento abbiamo pensato di fargli suonare subito la prima canzone. E prima di tutto, first of all, welcome to our studio. Thank you very much. Good to be here. Thank you very much for being here to share your music with us, and I hope you're going to have a good time with us. Oh, yeah. Yes, we're sure. Allora, let's start with a song. Okay, that's your job, right? Yeah. Allora, cominciamo subito con una canzone. Questa si intitola Maybe ed è anche il singolo estratto da questo album. Loro sono gli Audio Kiss in diretta da Blu Radio Veneto. Buon ascolto. Blu Radio Veneto Rock. Talking, but only you. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito Baby, il singolo degli Audio Kiss, un'esecuzione meravigliosa, complimenti, compliment. Thank you. Dobbiamo presentare anche Valentina, che è la chitarrista aggiunta questa sera, vero Valentina? Buonasera, grazie, buonasera. Ecco, ok, abbiamo presentato tutti praticamente. E adesso ci sentiamo la canzone nella versione contenuta nell'album con la full band. Blu Radio Veneto Rock. Del rock. Bene, dobbiamo appunto abbiamo ascoltato le due versioni di Maybe, quella semplice qui in studio e quella nello studio di registrazione, quello vero, e, con la registrazione a cui hanno partecipato complessivamente una dozzina di musicisti, quindi una band molto importante. Qui in Italia per questo tour promozionale gli Audio Kiss sono venuti soltanto nella formazione di base, appunto i tre che avevamo citato prima, e adesso cominciamo a chiedere loro qualcosa. First of all, you're a new band, but not new people, and no. Not new to music, I mean. No, our bones and joints ache a lot. So can you introduce yourself to our audience? Who's the official speaker of the band? Well, the three of us. All three. All three. Tutti e tre parlano benissimo. Yeah, we've all played before in different bands, mostly in the Dublin area of Ireland. Sì, abbiamo suonato tutti precedentemente in diverse band, principalmente nell'area di Dublino. We were starting individually. Two of us started about the same time as you two were starting in the Dublin area. So you know, we kind of grew up together about the same time. Sì, hanno cominciato nell'epoca in cui erano partiti anche gli U2 nella stessa zona. Quindi per un periodo si sono incrociati. You crossed your ways, your paths. I read in the website. Ci sono storie sul loro sito, se capite l'inglese, appunto, dei scambi di batteria con Larry Mullen Junior. That's right. And Jack I played with Steve Wickham in one band, and Jack played with Steve Wickham, and he also played on U2. He was like on the Unforgettable. He's violin player on War. Yes. Sunday Bloody Sunday was the track. Yes. And Drowning Man off the War album. Yeah. Sì, entrambi hanno suonato con Steve Wickham in periodi diversi. Steve Wickham è il violinista che poi ha collaborato anche con gli U2, appunto, nelle canzoni che avete sentito, di cui avete sentito il titolo dell'album War nel 1983. Steve Wickham poi ha collaborato anche con i Waterboys e con tantissime altre band. È un musicista di grandissimo spessore. So then, so we were in the bands together. I went off in a different direction in my career. I came back to music, and the first person I called was Jack Dublin to see whether... After how long? A while. Okay. Okay, allora Robert... A lot of hair loss. No, put this way, there were different currencies in Ireland. non si parla esattamente di date precise, ma insomma Robert aveva lasciato il mondo della musica, si era occupato di altre cose e qualche anno fa ha deciso di ritornare al vecchio amore e si è rincontrato con Jack, appunto l'amicizia era rimasta e quindi è da qui è nata l'idea di creare questa band. And you were writing songs during those years? Yeah, they started off as one and then became 10 and then for a while I couldn't record them, so when I actually went out and bought a little digiphone, I actually began to be able to record them. I said, okay, well, at least, and they started to build. So, yes, I said, I would like to find out. I thought they were worth developing. Yeah. So that was another reason I rang Jack. Okay. Because he couldn't play any music. Allora, in questi anni in cui non ha fatto il musicista ma altre cose, Robert ha comunque continuato a scrivere canzoni e accumulandone una grande quantità, e era un po' stressato per il fatto che non poteva suonarle, essendo un batterista e non avendo, diciamo, la possibilità di avere una band. Quindi l'idea di tornare a suonare è stata proprio creata dall'avere tutte queste canzoni e dal volere presentare al mondo. So you wanted to show your song to the world, right? And you need someone else to help you. Absolutely, because Jack says I can't play any musical instrument. I was a drummer in a number of the bands, but I couldn't put it down and I couldn't record the music myself. Okay. So the first challenge was to let Jack listen to what I had and try and make sense of it all. Give me some advice. Which is very difficult. Spero che capiate l'inglese perché le battute è un po' difficile tradurle. Comunque ha detto appunto che lui in quanto batterista non riusciva a suonare le canzoni, però adesso aveva bisogno dell'aiuto di Jack. A me nasce la curiosità di come le scriveva le canzoni non suonando. How do you write songs without playing them? Come un batterista crea un pezzo. Yeah. Well, the drum? He has an idea in his head of what he thinks it should sound like, so therefore he needs someone to help him get that out. But you write them down? No, I sing them into this little dictaphone, little recorder. That's all. I just record them into that. That's how the process started. We have changed all that since. We don't do it that way anymore. Ok, allora gli ho chiesto appunto come poteva scrivere le canzoni essendo un batterista e mi ha spiegato che le canticchia letteralmente se le registra. E quindi era una traccia veramente molto come dire basica quella da cui sono partiti, e l'aiuto di Jack è stato quindi molto importante. I've I'm saying that your job was very hard because the basic track where you're starting not only from does was he very play, simple. Not only could he not play music, he couldn't sing and either, so it was very difficult. He can sing, but he sings in one note all the time. Ecco, Siobhan appunto come cantante, come avete sentito anche che cantante. I will sing at 12:05 tonight. Ah, ok. Sì, ci stavamo chiedendo appunto come cantava come cantava in queste registrazioni, ma secondo Siobhan, che è appunto Siobhan, scusate, che è una cantante molto brava, è meglio non ascoltare quello che i risultati dei tentativi di Robert. So you better leave your songs to other people to sing. Rob gave me a phone call one day. I hadn't seen Rob for a long time. Because Rob had gone in a different direction, I'd continued on in the music industry. Rob went into a different industry. Allora ha detto che Robert lo ha chiamato dopo un parecchio tempo che non si sentivano, perché appunto lui aveva un'altra attività, faceva altre cose. Sì, so I got a phone call from Robert one day, out of the blue, as we say, as an expression, and he said he wanted to meet me, and it sounded very serious, you know. Sì, in questa telefonata che arrivava così di sorpresa, gli disse ho bisogno di incontrarti, e suonava un po' strano, like you want to be a partner in crime? Yeah, you know. Do we need rob a bank? Or temeva che lui gli chiedesse di andare a rapinare una banca. So he said we go for coffee and we'll have a conversation. So we met in a hotel in the village where we used to live, and he told me he wanted to form a band. Sì, allora ci sono incontrati in un caffè nel villaggio dove vivono, e gli ha detto così a sangue freddo, diciamo, voglio fare una band. And I said, who have you got? And he said, me. E gli ha chiesto a one man band. A one man band. Who can't sing and can't play. E quindi gli ha chiesto, ma chi hai per questa band? E la risposta è stata, sono io, che però non posso cantare e non posso suonare niente che tranne la batteria. Ok, let's play another song from the record. Allora ci ascoltiamo un'altra canzone dal disco che si intitola Bending Seas, il prossimo singoli ormai sì. Stavamo parlando anche in Irlanda si lanciano come download e non più come supporto fisico. Comunque appunto il prossimo brano per questa cosa è questo Bending Seas che andiamo ad ascoltarci ora. Blu Radio Veneto Rock. Waiting, it's a place, so let it be. La storica fiera di San Martino di Piazzola sul Brenta vi invita dal 7 al 15 novembre. Grandi manifestazioni, grande allegria. Trentesimo anniversario del mercatino di cose d'altri tempi. 26esima mostra dell'artigianato. Spettacolo di magia per grandi e piccini. Sfilata di moda, esibizioni di danza e rock acrobatico. Tutte le sere alle ore 19 apre lo stand gastronomico con vari appetitosi menù per tutti i gusti. Il maiale alla piastra e la tosella offerti dalla Proloco. Per gli amanti del ballo, dalle ore 21, un alternarsi di famose orchestre. Domenica 15 novembre, ore 17.30, grandioso spettacolo di fuochi d'artificio nel centro storico. Vi aspettiamo numerosi presso la sala della filatura a Piazzola sul Brenta, dal 7 al 15 novembre. L'onda del rock. Bending Seas era il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Vi ricordo, siete sempre su Blu Radio Veneto. Siamo qui in studio con gli Audio Kiss, i nostri ospiti. E adesso volevo chiedere a Siobhan come è entrata lei nella band, visto che loro cercavano una cantante. So, Siobhan, how do you get into the band? Who called you? As we said, Rob went to Jack. Jack then realized that he couldn't sing either, so they needed a singer. A bit better than him. Ok, dice, Robert è andato da Jack, Jack si è reso conto che lui non poteva cantare, anche se ha voluto specificare che comunque sarebbe meglio di Robert. Everybody's better than Robert. Yeah. Yes, as far as you're better than Robert. I don't think so. So basically, I'd worked with Jack a long time ago in a band that I've been called Christina Calls. And I hadn't seen Jack probably for 12 years, maybe. Yeah, since we recorded that. And I just got a phone call out of the blue, same way Rob contacted Jack, saying, thinking about doing this project. Si conoscevano perché avevano suonato insieme in una band chiamata Christine Cole. Is that right? Christine Cole. Evidentemente Jack ha pensato che la voce di Siobhan fosse quella più adatta. You thought that her voice was what you were looking for. Yeah, the Christina Calls, the band that Siobhan used to sing for, had asked me to come into the studio to produce a album and a single for them. So when I had worked with Siobhan, she was so easy to work with in the studio. She was very professional, perfect, you know. On the money is the expression we say in the studio, and I said I would love to, in my own head, I said I would love to work with Siobhan again, you know, she was just so good. So when Rob approached me to put the band together for the project, I said I have the very singer we need, and I gave her a ring, you know. Took me a while to find her telephone number. I had a few different numbers at that stage. Ha detto che appunto quando ha cominciato a pensare a chi poteva chiamare per suonare in questa band, le è venuto alla mente che aveva lavorato con Siobhan all'epoca appunto di questa band, e l'aveva trovata molto professionale, molto concreta nelle sue cose, oltre che naturalmente molto brava, e quindi con un po' di fatica ha recuperato il numero di telefono e ha trovato evidentemente una risposta subito positiva. You accept immediately. Well, oh, absolutely. No, I didn't. You couldn't say no to me. Well, I couldn't say no to Jack, but I did. I hadn't been doing singing for a while. The only singing I was doing is I was teaching in a performing arts school, and I hadn't been doing singing for myself. So when Jack said, we're doing this music, I said, well, I haven't been singing for a while, and I don't know what are you looking for? And he said, it'll be great, it'll be great. So that was it, just started straight away then. Per lei è stata un po' una sorpresa perché era un po' di tempo che non cantava come lavoro, ma insegnava canto e faceva altre cose, ma Jack l'ha convinta subito che quello era un'occasione da non perdere, che lei era la donna ideale per loro, e così hanno deciso appunto di provare, di fare questa prova. So you teach singing? I was teaching, yeah, there's a performing arts school in Dublin, in Ireland, and I was the singing teacher Lei insegna canto in una scuola di una specie di liceo artistico, da quello che ho capito, Performing Art School, è una scuola di d'arte, ma non teorica, ma diciamo pratica. Non so in italiano, Maurizio, se hai idea di come si possa chiamare una cosa del genere. Non esiste, o esiste, ma sotto altre forme, sicuramente. Bene, andiamo con un'altra canzone. Sì, un altro pezzo dal vivo, si tratta di The Waiting Game. Yes. Is that right? Yes, absolutely. Ok, sempre estratto dal loro album Really Kind of Moving, sono sempre gli Audio Kiss. Buon ascolto a tutti. Blu Radio Veneto Rock. Have to leave. Did I ever wish that you belonged to me? Now this emptiness I feel is here to stay, and these long lost lonely days will make me pay. Waiting, it's a time for taking. Waiting, it's a move to try. Waiting, it's a place for crying. It's such a shame, the waiting game. Have you ever felt how slow the time far up, died out there, is too faint to see. How can I teach a mind to make believe that to end the suffering I'll soon receive? Waiting, it's a time for taking. Waiting, Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ok, facciamo un po' di ringraziamenti, prima un secondo. Ringraziamo Michele che ha mal di schiena ma è inossidabile alla sala come regista. Roberto Baldi alla telecamera che ha sistemato un po' di cose. Alberto Pisco che ha avuto l'idea e soprattutto Vannuccio che ha portato, assieme a Nino che ha portato i ragazzi dall'Irlanda. Un ringraziamento a tutti. Vannuccio avrà modo. E poi un'ultima cosa, ringraziamo la nostra redazione esterna, quella mestrina fatta da tre ragazze, che sono la Nicoletta, la Silvia e la Patrizia, che collaborano alla trasmissione. Bene, io notavo una cosa adesso mentre suonavano, mentre Chivon cantava, la straordinaria facilità con cui canta Chivon è qualcosa di impressionante. Ho visto tanta gente cantare, ma per lei è come, diciamo, l'impressione è che faccia la stessa fatica che faccio io per parlare. Sounds great to me. Keep talking. Hope he's been nice. Forse ha capito qualcosa. Saying that when you sing, people are looking at you, I have the impression that you have no it's not hard at all for you to sing. It's so natural, so easy. Yeah, of course, there's a lot of training. Yeah. Well, I did do training growing up. I went to the College of Music, and I actually did classical and opera training for 5 years. And then they found out in the college that I'd started in a band, and I got kicked out of the college because you weren't allowed to do stuff like that. Oh, really? If you were doing classical and training, you had to do classical and training and opera, and that was it. No rock, oh, very, no very democratic. You know? Yeah. Allora, ha detto che lei per 5 anni ha studiato opera, un canto lirico, e poi è entrata a far parte di una band, e per questo motivo è stata buttata fuori dal canto, dalle lezioni, da dove studiava, perché la cosa non era consentita. Incredible. What kind of voice were you? Soprano, contralto? Yeah, soprano. Yeah. Soprano. Soprano. Yeah. Not now, not anymore. No, non più. Comes with lack of practice and too much beer. Sì, dice che adesso non potrebbe più cantare da soprano perché sono passati degli anni, non fa più gli esercizi necessari. Ma la cosa interessante è che però non ha quell'impostazione eccessivamente manieristica che spesso si sente quando qualche cantante lirico canta musica pop. When opera singers tries to sing pop music, it's horrible. You know? I was very lucky. My teacher found out that what was going on in the college, and they had me in front of a committee and all this sort of stuff. Like a trial. Yeah, it was. I felt like I was being trialed for murder. And she actually, I had about 8 months left of the time. They gave me like about 6 months, and there was 2 months left in the term. So I had 8 months left, and she taught me lots of techniques, how to use my voice so I wouldn't lose it. Ok, si è detto che quando c'è stato una specie di piccolo processo per buttarla fuori dalla scuola, sono storie veramente pazzesche, e la sua insegnante, che le era affezionata così, avevano ancora circa 6 mesi di tempo da stare insieme prima che lei venisse mandata fuori da questa scuola, e le insegnò parecchie tecniche, parecchi trucchi che ancora le sono utili. Puoi chiedere se è una prassi normale far così in Irlanda? Buttare fuori praticamente dalla scuola. Is that normal? You are thrown away of the school if you sing something different. Well, I don't think so. I think it was because it was a long time ago, and I was one of the I was at the time the youngest singing student that they had. They didn't you had to be I think it was 16 or 15 before they take you. I went in, I'd just gone 14 years of age, and they didn't take students at the age of 14. Okay. So I was the youngest at the time, but I'm sure now it has changed. They've opened it up to I mean, it was only 2 years ago, really. Sì, dice che una delle cose che diciamo hanno giocato a suo sfavore è il fatto che lei era la studentessa più giovane della scuola, aveva solo 14 anni quando è stata ammessa, quando gli altri ne avevano 16 o 17, e comunque questo è successo qualche anno fa, non diciamo quanti, ma comunque a occhio non potrebbero essere molti, e lei spera che adesso le cose siano cambiate, insomma, che ci sia una maggiore apertura nei confronti degli studenti. Are we going to play another song from the record? Yeah, sure, yeah. ascoltiamoci adesso un'altra canzone, quella che apre proprio l'album, si intitola A Little Realization, sempre gli Audio Kiss. Blu Radio Veneto Rock. Del rock. Ore 21:52, quasi 53, state sempre ascoltando Rockwave su Blu Radio Veneto, questo appuntamento speciale questa sera, con sempre una emozione meravigliosa avere dei musicisti in studio che suonano per noi, è una cosa che non è difficile spiegare, essere qui con loro e assistere alla nascita della musica per chi è come noi chiaramente appassionato. È sempre un appuntamento straordinario. Un po' dall'Irlanda ancora meglio. Cioè, chiaramente non capita tutti i giorni quest'isola che ci ha regalato tante grandi emozioni. E, fra poco faremo una pausa con gli Audio Kiss per parlare con Vannuccio della sua etichetta discografica, che appunto ha contribuito in grande parte a, alla scoperta, alla scoperta e a, a portare qui gli Audio Kiss. Prima ascolteremo un'altra canzone, l'ascolteremo in due diverse versioni, quella che ci verrà proposta qui dal vivo e poi quella nell'album, che è molto diversa, perché appunto arrangiarla acusticamente ha significato apportare dei grossi cambiamenti. E questa è una canzone che ci stavano dicendo ha una storia importante, allora gli chiediamo: Can you tell us the story of the Thunderclouds? It's the first song you, you played together? Well, it was the first one that is, was, it was an interesting background. Jack came up with the initial first two lines. I had the first verse of it. The first two lines, yeah, then the first verse, line, but yeah. We didn't know where it went from there, so I went away and thought about it for about a week or two and came back with a chorus. So now we had a verse and a chorus, but Siobhan again, you know, was looking at it as a rounded song, and it wasn't really complete. She didn't think it was complete, and we were really, you know, where do we have our verse? We have our chorus, and then you know, we Siobhan only wrote the middle eight section in the studio. It was like when we were recording. It was like, well, chord wise, where do we go from here? So the guys kind of came up with a thing, and it was like, right, Siobhan, we're going for a sandwich. This is your turn. Do the middle eight bit. Wasn't it like that? So I, that was my first time. Cerco di riassumere tutta la storia, perché praticamente della canzone c'erano soltanto le prime due righe che erano opera di Jack. E dopo due settimane Robert è arrivato con il ritornello, però la canzone non era ancora completa. A quel punto è stata Siobhan che l'ha presa in mano e ha scritto il bridge, il ponte centrale che diciamo tiene insieme il pezzo, per cui è veramente uno di quei lavori di team, di brainstorming si dice anche in italiano ormai. E per cui è una dimostrazione appunto di come la band, nonostante all'epoca fosse appena formata, avesse cominciato immediatamente a funzionare molto bene. You were together for since a very short time then, but you worked together immediately. Exactly. Yeah, that was about 4 months now at that stage. Yeah, about 4 months, about 16 weeks we were together at that point. Yeah. So it's it was a sign that things were going better and better. Yeah, I had the melody, the basic melody, and the first few lines, and I just couldn't seem to get them to fit with the other choruses. I tried many choruses, and I said to Rob, "I have this one," and he said, "Oh, well, think about that," and off he went and had a look. And then he got stuck then for a middle eight and a little piece. So then we. Right, Siobhan, it's your turn now to have a go at this. So and this I said, is the first time I don't write words. I'll sing, but I don't write words. And they said, you do now. Yeah. Ah, ok. Mancavano appunto il bridge centrale dopo che ognuno aveva scritto dei pezzi, li avevano messi insieme dopo molti tentativi per trovare degli accordi giusti, eccetera. Ma mancava qualcosa e hanno deciso che doveva essere Siobhan a scriverlo, anche se lei non aveva mai scritto niente, aveva solo cantato. E loro le hanno detto: no, anche tu devi fare la tua parte. Quindi lei è riuscita a realizzare questa cosa. E praticamente si può dire che. Ognuno di loro aveva un pezzo di canzone, ma per avere una canzone intera c'era bisogno di tutti e tre. Each one of you had a small piece of song, but all to have a full song, you need to be together, right? Yeah. Mm-hmm. Okay. So let's listen to this song. Ascoltiamo questa canzone, si intitola Thunderclouds. Blu Radio Veneto Rock. Don't rain down share the picture where we can smile. Nowhere there's pain. Are we still free? We're going to stay here as long as our hearts can be. Don't rain down, down on me. Don't rain down, the land of far off places, a mind of many faces. You said that I'd be the one who figured it out. You Sono le 22 e un minuto. Rockwave, l'onda del rock. Bene, abbiamo ascoltato la versione in studio di Thunder Clouds. Adesso gli Audio Kiss si prendono una breve pausa, ma ascolteremo la stessa canzone nella versione in studio, appunto molto diversa. Dopodiché avremo la... un'intervista, uno spazio, come abbiamo detto prima, dedicato a Vannuccio, e poi la band sarà di nuovo con noi per deliziarci ancora con queste cose incantevoli. Volevo solo sottolineare una cosa: io l'ho sentito questo pezzo un sacco di volte, alle 4 di mattina soprattutto. Lei ha una voce meravigliosa e dà una sensazione straordinaria. Lo considero il pezzo più importante dell'album, più difficile da cantare, ma tu l'hai cantato benissimo. Adesso Stefano traduce. Sì, io traduco, tanto i nostri ascoltatori non hanno bisogno di sentire. Alla 4 di mattina si sente meglio i pezzi, ai 4 di mattina, vero Michele? Okay. C'è anche della gente normale che lo ascolta di giorno comunque. E allora ci ascoltiamo la versione su disco di questa bellissima Thunder Clouds. Blu Radio Veneto Rock. You and I. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, adesso Stefano si è dato un momento di pausa con la band. Siamo io e te, Vannuccio. Vannuccio è il produttore, lo scopritore degli Audio Kiss. Siamo più lo scopritore che il produttore, perché sono loro che hanno. Sì, che come, hanno gli, come li hai scoperti? Ma in maniera abbastanza strana. Poi abbiamo anche la Valentina, qui per Valentina, esempio. Sì, Valentina. Dopo lei parlerà anche lei. Esatto. No, l'amicizia con più che altro un'amicizia con loro è nata per un motivo molto semplice. Come etichetta stiamo progettando di ristampare i due dischi che Jack Dublin registrò con il gruppo Intuanua, quindi due dischi album storici degli 87 dell'88. Ricordiamo che il singolo è stato aperto con l'etichetta degli U2, gli Amavero Records, ti ricordo. Esattamente, il primo. Era un singolo, adesso non so da che quotazione abbia il singolo. Ma il singolo non ho idea, onestamente. Però è abbastanza raro. Era difficile sicuramente da trovare. Ed è difficile da trovare. Comunque l'amicizia nacque perché quando noi decidiamo di fare qualche tipo di ristampa, cerchiamo di avere comunque un contatto con gli artisti che l'hanno prodotta. Devo ringraziare ovviamente Paul Byrne, che era il batterista degli Intuanua, con cui sono venuto primissimamente in contatto. Avuto questo contatto praticamente. Esatto, con cui abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto. Dopodiché ci fu un momento in cui decidemmo un po' come sistemare queste uscite, e fu il momento di chiedere un po' agli ex componenti della band di scriverci delle note da inserire in queste riedizioni. Questo fu tutto via telematico. Adesso si usa così, una volta ci c'erano le lettere, adesso esatto, non ci sono più, adesso vabbè. Tutto via telematico. Meglio, lo conferma anche la Valentina. Sì, tutto sì, assolutamente. Sì, perfettamente. Assolutamente così. Succede che chiedendo ovviamente a tutti i vari membri, Jack rispose dicendo una cosa molto bella secondo me, e anche abbastanza strana per quanto riguarda l'ambiente discografico, e questo vi dà già l'idea di che tipo di persone sono loro. Rispose dicendo: Vannuccio, nessun problema ovviamente per le note per il disco, sai, noi il 25 di settembre, eravamo all'inizio di settembre, il 25 di settembre usciamo con un disco con questa mia band nuova, ti piacerebbe sentirlo? Perché mi farebbe piacere avere la tua opinione. Perfetto. Ecco, la cosa bella dal punto di vista discografico è che non ha chiesto come puoi aiutarci, cosa puoi fare, eccetera. Chiese semplicemente un'opinione sul disco. Già fu bellissimo, perché invece di una copia me ne arrivarono quattro. Ottimo. Uno dice, quindi puoi darle anche qualcosa, agli amici, esatto, che può girare. E quindi comunque un'idea della generosità della persona. Il disco è, l'avete sentito? Sì, certo, un bel disco fatto bene. Strepitoso, non tanto perché sia innovativo. No, assolutamente no. Però ha una genuinità. Esattamente, incantevole. Accattivante in alcuni sì, momenti. È stato fatto poi con, come posso dire, con l'entusiasmo. Esatto. C'è un entusiasmo sotto di suonare che difficilmente si sente. E si sente soprattutto perché nella maggior parte dei casi le cose sono un po' artefatte da quella che può essere la moda, il sound del momento, lo studio che comunque modifica le cose e che cerca di rendere magari un prodotto mediocre il più appetibile possibile. Loro non avevano questi fronzoli, semplicemente era la splendida voce ovviamente di Siobhan, una chitarra assolutamente suonata benissimo da Jack, la batteria di Robert, e quindi un disco assolutamente incantevole. Sono dei brani, uno più bello dell'altro effettivamente. Poi giustamente, come abbiamo ricordato prima, ieri sera li abbiamo visti in un locale qui vicino, famoso Banale, lei canta senza nessuna difficoltà. Esatto. È una cosa straordinaria. Ovviamente me ne sono accorto anch'io per la prima volta ieri sera, ovviamente. Senza nessuna difficoltà, con una voce stupenda, esatto. Ma normale. Come... Esatto. Quella è una cosa straordinaria. Delle... Ed è incantevole. È incantevole, esattamente. Incantevole. Questo è il rapporto con gli Audio Kiss. Dobbiamo ricordare che tu hai un'etichetta, però. C'è un'etichetta che è nata nel 92. Che fa le sue piccole cose, piccole relativamente, no, diciamo anche delle fa le cose, più, dai, fa diciamo le anche cose. Delle cose simpatiche, ecco, mettiamola così. Poi tu hai un'idea, il discorso del progress, a me interessa quello. Adesso tiriamolo progress. Fuori, dai, visto che diciamo ci siamo. Diciamo che un po' l'etichetta ha avuto il grosso sviluppo proprio utilizzando, ecco, chiamiamola così, utilizzando quello che poteva essere il progressivo italiano nel nostro caso, nel senso che abbiamo riscoperto dei dischi che mai erano stati stampati prima in CD, come i Piero Lunera, ecco, di Arturo Stanti. Fermiamo un secondo, il Piero Lunera, io ho una certa età, tu lo stesso mi permetto di dirti, siamo coetanei, esatto. Ma il Piero Lunera era una band storica dal punto di vista del progressivo. Certo. leader, è un personaggio straordinario che sa, va, mescola tutti i generi possibili. Esatto. Arturo Stalteri, dobbiamo dirlo, è bravissimo. Arturo Stalteri è bravissimo, assolutamente. Bravissimo. Però bravissimo. Era un gruppo straordinario all'epoca. Sì, assolutamente, ma erano anche abbastanza, come posso dire, innovativi, secondo me. Innovativi anche nel progressivo stesso. Esattamente, non è facile essere innovativi nel progressivo, cosa dici? Beh, non è facile perché come sempre si tende, e soprattutto gli italiani che arrivavano sempre con qualche anno di ritardo, sempre ultimi, esatto, ma non per dire niente, ma arrivavano così. No, eccetera. Esattamente. Loro invece proposero esattamente un genere che mescolava quella che era la musica classica, da cui comunque proveniva Arturo Stalteri. Certo, e certo. Gaio Chiocchio. E lo presenteremo qua, verrà a trovarci. Speriamo, un po' di... Arriverà. Sentite sempre Rockaway, che ha sempre delle cose straordinarie, esatto, da proporvi. E loro proposero questi brani stranissimi, la storia lo racconta con Vincenzo Micocci, che fu subito conquistato da questo brano. Ricordiamo chi è Vincenzo Micocci, per quei giovani che non lo sanno. Allora, dai. Vincenzo Micocci è esattamente chi ha creato la musica italiana. La hit l'ha creata lui, la hit, l'etichetta fondamentale. Quindi tutti i grossi artisti che ancora adesso, certo, ascoltiamo, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Renato Zero. Nascono sempre da lui, ragazzi, tutti da Francesco Micocci. Esatto, o un mito come è stato Rino Gaetano. Mito, che aveva difficoltà all'inizio, te lo ricordo quella storia? Beh, fu la grossa storia, il grosso aneddoto. Dobbiamo dire queste robe, queste sono importanti. Fortis, Alberto Fortis, esatto, il discorso, esattamente. Il citiamolo questo aneddoto. Dai. Vincenzo, io ti ammazzerò. Esattamente. E quello fu perché Vincenzo Micocci non era convinto dei brani di Fortis. Esatto. Alberto Fortis la prese come se fosse uno sgarbo, essendo milanese. È vero, verissimo. Perché la storia, ragazzi. Esatto. Perché la scuola romana sembrava essere dominante nell'ambito dei cantautori. Chiaro. Invece non era semplicemente così. È vero. Semplicemente Vincenzo Micocci non credeva in quel esattamente momento. Esattamente. Beh, rifiutò anche Renato Zero all'inizio. Certo, certo, questo è vero. Mentre dopo, molto probabilmente, erano anche momenti diversi. Sai cosa mi piaceva di Micocci? Che ha scoperto l'autore di Silvia. Renzo Zenobi. Renzo Zenobi. Io l'ho trovato... Adesso... è un po' scomparso dalla circolazione, ma adesso sta facendo qualcosina. Però Silvia era un disco splendido, secondo me. No, lui è stato molto bravo. A me piaceva particolarmente Zenobi. Aveva anche lui una vena compositiva molto bella. Forse era più bravo come compositore. Sì, Però all'epoca funzionava il discorso del cantautore. Quindi chi scriveva le canzoni se le cantava pure. Esatto. Quindi ecco perché... E comunque... giustamente la schiena siamo dal periodo lunedì, siamo arrivati a Renzo Zenobi, che bella questa è Rock, sì, Wave, è Rock Wave, è la maniera di e poi possiamo dirlo, sono denominatori comuni, certo, non facciamo pubblicità, ma è uscito un libro qualche anno fa, forse due anni fa. enorme dal punto di vista, certo, del peso, che ricordava la RCA italiana, esatto, una fucina di talenti, ragazzi, una roba strepitosa. Beh, sai, fu una grossa fucina, perché poi comunque passarono Lucio Dalla, di tutto passò per la hit. Chi continuò, chi invece scomparve, certo, niente da dire, non per eventualmente un demerito, no, semplicemente perché esiste un'evoluzione musicale e quindi molto probabilmente anche certi artisti, figuriamoci, la hit ha continuato fin pochi anni fa, è vero, Francesca Schiavo, sì, non so se qualcuno se lo ricorda, oppure fu un prodotto sempre della hit il Dilaniato di Tito Schipa Junior. Ecco, fermiamoci un secondo, dell'87. Tito Schipa Junior ha fatto delle cose meravigliose, esatto, ha fatto l'opera famosa, prima opera rock in, esatto, Italia, esatto. Orfeo 9, ragazzi, Orfeo 9, esatto, è una cosa straordinaria, è stato ristampato in CD, beh, tu lo sai meglio di me. Sì, no, noi ristampammo solamente il Dilaniato, chiaramente, di Tito Schipa, ma lui continua, ha fatto dei lavori ricordando, per esempio, ovviamente essendo figlio del tenore, certo, ricordando, certo, Maria Callas, sì, sta ancora lavorando e stava comunque lavorando per riportare l'Orfeo 9 ancora in... Adesso ci fermiamo e sentiamo un primo pezzo del tuo catalogo. Questa ragazza, okay, che adesso sentiremo un momento, chi è nostra, questa ragazza? La nostra Elizabeth Gale. Esattamente. È ormai una signora, possiamo dirlo, olandese, trapiantata in Italia. Una bravissima, tra l'altro, sia compositrice che cantante di jazz. Un jazz che però, ecco, non confondiamolo con il jazz classico, un jazz che ricorda molto Joni Mitchell, ricorda... Che periodo di Joni Mitchell, Vanuccio? Direi addirittura quello di Blue. Ah, quindi quello di Blue, che è un, diremmo che 70. Forse il disco più bello di Joni Mitchell, a mio parere. Secondo me anche. A mio parere, chiaramente, esatto, sempre a mio parere. Tu, Valentina, sei d'accordo? Sono un'esperta di tutti i dischi di Joni Mitchell, però... Per Blue è un capolavoro, sì, assoluto. Da, sì, sì, da, sì. Blue sono nate molte cose, secondo me. Non so se sei d'accordo. Sì, sì, sì. Tu, Manuccio, sicuramente sei d'accordo, sì, con me. Sì, assolutamente. Sì, sì, no, no. È nato Laura Nero, sono nate, certo, Carole King. Cioè, tutte, certo, le grosse cantanti americane, in qualche modo, sono comunque... uscite, diciamo, dal nucleo, proprio anche grazie a Joni Mitchell, certo, che è l'esponente più famosa in adesso, giro per il mondo. Adesso sentiamo il primo pezzo di questa musicista. Sentiamo un primo pezzo, si intitola So Cool come l'album, quindi... La title track, praticamente. La title track, che sicuramente piacerà. Ok. Blue Radio Veneto Rock. Keep your glasses on. just to look cool. Diretta rockway.altervista.org. Stasera ci possono vedere e sentire Valentina, quindi con le nostre webcam gestite come sempre da Roberto Baldi, in regia Michele Tosò in grande forma nonostante il mal di schiena, e Stefano che adesso si è riposato un po' con la band arriverà fra poco. Io e Vannuccio che parliamo della tua etichetta, Vannuccio. E cosa possiamo dire? Possiamo dire, intanto questo abbiamo sentito il primo pezzo di questa musicista. Esatto, questa allora, ragazza. L'etichetta alterna un po' quelle che sono nuove proposte a delle ristampe, come abbiamo detto prima, quindi cerchiamo di riscoprire sia dei vecchi gioielli del passato, che giustamente se sono gioielli vanno bene rispolverati ogni tanto, cerchiamo di scoprire anche dei nuovi talenti, non necessariamente locali. È un esempio Elizabeth Gale. Noi riceviamo tanti demo ogni settimana, li ascoltiamo, decidiamo un po' quelli che possono essere particolarmente, non dico necessariamente belli, devono essere soprattutto originali. Ecco, quello devono è importante. Presentare qualcosa di nuovo, devono dire qualcosa. Possiamo prendere l'occasione appunto per presentare Valentina, in questo caso, che avete già sentito suonare, e Valentina è uno di questi casi, con la band con cui ha inciso il primo disco, si chiamano La Chaise, e fu una bella sorpresa in un mondo un po' omologato, soprattutto in un certo genere. Il loro genere doveva essere, inizialmente doveva appartenere al filone del gothic rock, secondo me non era così. Evanescence, ricordando gli Evanescence, oppure il gruppo italiano che ha avuto un grande successo adesso in America, i Lacuna Coil, esattamente. Esatto. Però secondo me la tessitura dei brani non era da gothic rock, di converso neanche i musicisti di per sé sarebbero stati assolutamente adatti per questo genere. Fu un lavoro travagliato, devo dire, uno dei dischi in cui la produzione è stata condotta da me dall'inizio alla fine, un disco di cui comunque sono orgoglioso ancora adesso, perché secondo me siamo riusciti a trovare delle giuste combinazioni, esatto, delle combinazioni molto belle per dei brani che sono fondamentalmente molto belli. Loro erano molto bravi, anche se insomma, come dicevo prima, avemmo una travagliata vicenda, voi sia per delle cose un po' degli scontri personali, sì, che cose che possono, no, capitare, dei conflitti personali, ci furono anche dei problemi con i musicisti, ho capito, dire, ma comunque insomma alla fine il disco fu prodotto, tra l'altro con un grosso lavoro sia di pre-produzione sia di post-produzione. Anche nel loro caso però cercammo, viene citato perché ovviamente ha avuto un grosso peso, Fabio Liberatori e Gianrico La Rosa, perfetto, dove abbiamo missato l'album a Roma. Fabio Liberatori, lo ricordo, era il tastierista degli Stadio, certo, e al giorno d'oggi compone le colonne sonore per i film di Carlo Verdone. Perfetto. Anche con lui un'amicizia lunghissima da anni, ed era sicuramente la persona più adatta a rimissarci un album così particolare. Volevo chiederti una cosa, sì, velocemente, poi sentiamo l'ultimo pezzo di questa musicista inglese, italiana, che canta in inglese, e poi sentiamo i due pezzi della Valentina. Senz'altro. Come si fa a creare un'etichetta indipendente? Ma chiunque può creare un'etichetta indipendente, il problema non è dare un nome all'etichetta. Il problema è avere qualche idea. Ecco, quello è importante. Avere qualche idea per poter andare avanti. Avere qualche idea, avere qualche... Non dico neanche... Non servono moltissimi soldi, fortunatamente. Serve avere, come posso dire, un discernimento sulla qualità di quello che si fa. Certamente. Ci sono tantissime etichette che secondo me producono delle belle cose. Ce ne sono altre che producono cose meno belle. Certo. Ecco. Ognuno giustamente, non c'è niente di più democratico della musica, quindi ognuno può fare quello che vuole ed è un pubblico che poi decide se è bello o meno. Noi cerchiamo di dare almeno un senso di qualità a quello che facciamo. Benissimo, adesso sentiamo l'ultimo pezzo di questa ragazza di Schio, mi pare che... Lei abita a Schio in questo che momento. Canta in inglese, canta in ti inglese. Ricordi il pezzo? Allora si intitola A Man of My Home. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. Help me with the zipper of my dress. I find it kind of tricky, I confess. Here's an opportunity to express your full potential, yes. Oh, said, yeah, uh-huh, yeah. I said, yeah, uh-huh, yeah. I said, yeah, uh-huh, yeah. I said, yeah, uh-huh, yeah. I said, yeah, uh-huh, yeah. Sono le 22 e 34 minuti. Rockway, l'onda del rock. Diretta rockway.altervista.org. Ci potete sentire e vedere. Adesso abbiamo la Valentina come protagonista, vero? Sarebbe ora. Sì. Questo piccolo, una decina di minuti per parlare di te, del tuo disco, quello che avevi in giro un po' di tempo fa, sì. Con l'etichetta di Vannuccio. Sì. Beh, allora, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'opportunità. Ricordiamo, Valentina sta suonando con gli audiokeys, chiaramente. Ma è sempre... E fra qualche minuto riprendiamo la storia, la cavalcata, riprendiamo. Sì, sì, e questo è sempre in qualche modo merito di Vannuccio. Comunque, sì, io ho suonato fino a qualche mese fa con questo gruppo, i Lachaise, che comunque sta continuando a suonare dopo che io mi sono allontanata. E... per farla breve, perché questo gruppo in realtà era nato ancora nel 2004. Era un'idea tua di questo? No, era un'idea di Nico, il tastierista, che poi è quello che ha scritto la maggior parte dei pezzi. Aveva messo un annuncio per cercare altri componenti per suonare musica propria, io avevo risposto, poi pian piano si sono uniti anche gli altri. E poi è arrivato Vannuccio. Era iniziato un progetto che poi, senza stare a farla lunga, si era interrotto perché abbiamo cambiato 25 cantanti. Ho capito. Perché in questa zona è un po' un incubo. Tu sei di Mogliano, dici? Sì, sì, io sono di Mogliano e ne abbiamo provate veramente tante, però quando si vuole fare un progetto serio, quando si trova la gente seria, magari non c'è il neanche la capacità, ma magari il timbro che magari non è quello adatto. E quindi alla fine lì il progetto si era interrotto, ci eravamo sciolti e ci siamo riuniti, mi pare, nel 2007, quando Nico ci ha ricontattati perché sosteneva che appunto si trovava. Era il momento giusto. Era meglio, gli piaceva di più il sound che aveva quando eravamo insieme e quindi lui era già in contatto con Vannuccio in quel momento. Perciò ci siamo riuniti, perché comunque credevamo nel progetto anche prima. E abbiamo ripreso da dove avevamo interrotto, c'erano dei pezzi nuovi, abbiamo rivisto quelli vecchi e poi abbiamo cominciato a collaborare con Vannuccio appunto per la lavorazione di quest'album, che come diceva lui è stato un po' travagliato, però ha dato le sue soddisfazioni. Che scelto, che pezzo hai scelto per dare un'idea, darci un'idea dell'album? Il primo pezzo che abbiamo scelto è Short Life, anche se secondo me non è quello che meglio rende. Vannuccio, tu cosa dici? Beh, io penso che sia stato invece, beh, forse è una mediazione in questo caso fra quello che loro piaceva di più e quello che piaceva più a me. È uno dei brani dove abbiamo lavorato forse anche molto di più, quindi dico, almeno per orgoglio personale, dico forse dove si sente un po' di più la mia mano di produzione. Sì, beh, comunque penso a ricordo il più anche il più orecchiabile che c'è, e la gente tendeva a ricordarlo subito quando andavamo a suonare fuori, diceva mi piace quel pezzo che faceva così, e quindi scuoteva molto successo. Adesso lo sentiamo assieme, sì. Allora Blu Radio Veneto Rock. Light, so real, so light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light, light L'onda del rock. Abbiamo fatto un assaggio allora, Valentina, sì, del tuo album, quello che avevi inciso un po' di tempo fa. Giustamente, Vannuccio, mentre parlavate, mentre il pezzo andava, della sistemazione, non della sistemazione, dello svolgimento del pezzo, Vannuccio. È molto interessante, secondo me, questo. Beh, è la parte squisitamente produttiva. Quello è interessante, perché i nostri ascoltatori devono sapere come si produce un pezzo. Allora, come si produce un pezzo? Intanto si studia il pezzo stesso. Quindi okay, non vuol dire semplicemente arrangiarlo, vuol dire pensarlo dalla base che viene proposta normalmente dall'artista. Significa, di solito uso questa metafora, che è quella di tagliare un diamante. Di solito un bel brano è un diamante grezzo che in qualche maniera deve essere fatto brillare. Quindi significa avere la possibilità di lavorarci, trovare quelle cose per renderlo ancora più splendente, trovare anche quelle maniere particolarmente semplici per far funzionare un brano. Spesso e volentieri un gruppo che arrangia dei suoi brani tende a essere abbastanza personalistico. Sì. Ma avevano libertà loro, però? No, non avevano libertà. Avrei voluto che ne avessero meno. Ma perfetto. Perfetto. Cosa succede? Per esempio, il batterista pensa di fare un certo tipo di cosa, il bassista ragiona in un'altra maniera. Il problema grosso dei gruppi nuovi è che nessuno ascolta cosa fanno gli altri componenti. Ah, ho capito. Ognuno pensa al suo strumento, tutti lo suonano magari benissimo, messi insieme esce una canzone, sì, che però se a qualche momento lavorata uscirebbe molto meglio. Ho capito. Allora il problema è sempre quello di limare un po' quelli che sono gli egoismi personali. Cosa dici, Valentina? È così? Sì, sì. È così. Questo è stato il motivo che ha fatto nascere vari problemi, però ovviamente, cioè, corna contro corna, per dire, no? Quando uno si impunta, però effettivamente... Ma il produttore ha quel compito, secondo me, sì, di trovare il punto di coesione. Guarda, è un lavoro di fiducia. È appunto. Cioè, il problema fondamentale è che deve esserci una fiducia nel produttore. Forse molto tra l'altro la cosa di difficile soluzione, perché mentre ci stai lavorando è difficile far capire cosa hai in mente, è difficile anche dire a queste brave persone: ragazzi, proviamo, dopo sarà l'orecchio a giudicare alla fine se la mia soluzione è migliore della vostra. Fortunatamente di solito ho ragione io. Cosa succede? Ma è solo una questione di esperienza. Certo, certo. Una sensibilità ovviamente di produttore, però è una questione di esperienza. Dopo ci sono tanti, tra virgolette, trucchi del mestiere per far venire bene la canzone, che sono sperimentati dai tempi di Nilla Pizzi, immagino. Per cui, ecco, questo fu un brano. Ci fu un altro brano che fu lo stesso, lavorato parecchio, perché l'idea di fondo era bellissima, una melodia splendida, un giro di accordi assolutamente delizioso, però il problema è che il brano non girava, il brano era piatto dall'inizio alla fine e cercammo in qualche maniera di trasformarlo. Ma giustamente lasciamo parlare Valentina, sì, questo brano, perché il secondo pezzo, i suoi interventi sono stati essenziali. Vai, Valentina. I miei. Sì. Sì, beh, parliamo di Deep Silent Melancholy, che sì, è stata stravolta completamente rispetto a com'era all'inizio. Effettivamente era molto, molto dritta e monotona, si potrebbe definire. È stato aggiunto tutto un pezzo iniziale più lento, che crea un'atmosfera pazzesca, secondo me, ma proprio probabilmente a gusto personale mio, anche perché, vabbè, lo suono io, quindi magari uno egoisticamente dice, vabbè, il pezzo in cui suono io. Però sì, è stata resa molto più... a questo crescendo proprio fino ad arrivare poi alla fine che Vannuccio è stato soddisfatto in questo. Beh, sì, spero di sì. Beh, sì, in questa canzone comunque siamo stati abbastanza bravi, dai, a seguire le direttive. Bene. Ma sai, era anche forse l'ultima canzone che avevano scritto in ordine di tempo. Ah, okay. Era più fresca. Era più matura rispetto a quella iniziale. Era matura come scrittura, non era stata ancora talmente assimilata da essere inarrivabile. Perfetto. Ecco, questo è il problema. Lo facciamo in questo modo che immagino adesso. Ok, adesso la sentiamo assieme. Vuoi ripetere il titolo? Deep Silent Melancholy. Perfetto. Blu Radio Veneto Rock. Noisy steps, nobody hears. Loud protest, she doesn't gain dear. She hopes to get her before it gets too dark. And she keeps on living in a silent melancholy. And she keeps on living in a silent melancholy. And she keeps on living in a silent melancholy. Rock Wave, l'onda del rock. E rieccoci in studio, sono tornato anch'io dopo aver lasciato giustamente spazio a Maurizio con Vannuccio, questi bellissimi dischi, e anche per così abbiamo creato uno stacco. Adesso torniamo in Irlanda e torniamo a parlare del mondo musicale irlandese. Prima di tornare ad ascoltare la musica degli Audio Kiss, loro essendo nati e vissuti a Dublino e avendo frequentato il mondo della musica della città, che come sappiamo è estremamente ricco, hanno avuto modo di conoscere tantissimi musicisti. In particolare Jack ha suonato con una band che si chiamava Into a Nua, che sì, ebbe parecchi brani di successo anche qui in Italia. Io li vidi dal vivo qualche anno fa, non stiamo a specificare quanti, e adesso abbiamo appena saputo da Vannuccio che, grazie appunto a questa amicizia che è nata con fra Vannuccio e Jack, i dischi degli Into a Nua verranno ristampati, e questa è una notizia che ci riempie di gioia, e possiamo già anticipare che quando saranno disponibili, pare entro la fine dell'anno, faremo una buona presentazione, vi faremo riascoltare. Per chi se li ricorda dall'epoca, sarà un bel viaggio nel passato, e per chi non li conosce sarà una bella scoperta. I was explaining about the reissue of the Into a Nua Records, and sì, it was a great story for you playing with Into a Nua, I'm sure. So oh yes, a long time ago. Yeah, we played in Italy many times here, had a great time here in Italy. Yeah, yeah, but you know, I have to tell you something. I hope you don't get upset about that. Everybody remembers the two blonde girls from Into a Nua. Not in Italy, everybody remembers the blonde girls. Gli ho detto che tutti ci ricordiamo delle due ragazze bionde degli Into a Nua, quelli che li stavano insieme, insomma, ti ricordo un po' più sfumato. We remember that there was also other people in the back, but hiding behind the two blonde girls. Yes, and you're doing it again. Of course. That wasn't done on purpose. Ha visto che funzionava, allora, anche perché Siobhan, voi non la vedete. No, we have Siobhan for her singing, not her hair color. Her singing, her vocals. Of course. Naturalmente, l'avete sentito anche voi, insomma. Non l'hanno certo presa solo per la sua avvenenza, ma soprattutto perché è una voce straordinaria. Però, insomma, anche quello è importante, avere una presenza scenica, sicuramente non è uno svantaggio. E gli Into a Nua suonarono diverse volte in Italia, ma suonarono in tutta Europa, e insieme anche alla crema, direi, del rock di quell'epoca. You supported, I read, all the best musician in the world, I think. Yeah, we played a lot of the big festivals in Europe, Rock Am Ring and Pink Pop. We played Ibrox Park, we played Slane Castle with Bob Dylan. The list is endless, yeah. We toured with U2, Simple Minds. Yeah. Dice che non posso non poi linkare tutti. In Torino we played with the Rhythmics here. Ah, yes, yeah. I remember that show, that tour. Si hanno suonato anche a Torino con gli Rhythmics, e hanno suonato lo Sloan Castle con Bob Dylan, e in vari festival in giro per l'Europa come Rock Am Ring e Pink Pop, che sono dei festival dove di solito ci sono un pubblico. How many people is in those festivals? 100,000 people? 100,000 at Rock Am Ring, yeah. Probably about 60,000 at Pink Pop. UK festivals anywhere, 70,000-80,000 people. Yeah. Si parla di festival che vanno dalle 60 alle 100,000 persone, quindi sicuramente, I suppose it was a great emotion for a young musician to play in front of such a big audience. It's a great feeling, it is a great feeling. Very scary or... No, it's funny. It's far more nerve-wracking, scary to play in front of 5 or 10 people than 100,000 people. Because they're looking at you. They're looking at you, and you can see their eyes. You know, in a big arena, you don't see the people's eyes. You know. Okay. Ti gli ho chiesto se faceva un po', diciamo, paura suonare davanti a folle così sterminate per un musicista giovane, ma in realtà ha detto che è una paura che si supera molto facilmente. Invece è più impegnativo a volte suonare davanti a un piccolo pubblico, perché quello ti guarda negli occhi, c'è un vero interscambio, e quindi sì, era più nervoso in queste situazioni. Of course I'm wishing you to play in front of 100,000 people also with audio kiss. We'd love to. We hope to. ti mando naturalmente l'augurio che anche gli Audio Kiss abbiano la possibilità di suonare in questi grandi festival che, nonostante la crisi della musica, continuano a riscuotere un enorme successo. Abbiamo qui alcune, abbiamo portato alcuni vecchi amori, dischi, vecchi amori dell'Irlanda, e loro hanno scelto qualcosa. Ad esempio questo album degli Hot House Flowers, Siobhan conosce personalmente il cantante degli Hot House Flowers. You personally know the Hot House Flowers singer. Yeah, I did. Which, I was in another band called Altogether Morris, and the other man in the band that I worked with, his mother died, and he wrote a song for his mother. She died of cancer, so we wrote a song for the Hospice Foundation, which is a cancer foundation. And Liam came and did the song with us. He played piano, didgeridoo, which was hilariously funny in the studio. We all had to go. No, it's impossible. Sì, mi ha chiesto se se mai provato a suonare il didgeridoo, che è uno strumento degli aborigeni australiani, una cosa molto particolare, perché lei appunto con Liam, noi lo chiamiamo Liam O'Mahony, ma la pronuncia giusta è Liam O'Mahony, il gaelico è una cosa, è una brutta bestia, e appunto l'ha chiamata per cantare con lui in un singolo di beneficenza per una associazione che aiuta la ricerca sul cancro dopo la morte appunto della madre, e lui ha voluto fare questo singolo, e ha chiamato appunto Siobhan con lui per realizzarlo. The single is only available in Ireland, as far as I know. Yeah, we actually gave the song completely to the Hospice Foundation. We just let them take it, and they have it as their. Sì, la canzone è stata donata all'associazione di beneficenza, e non è disponibile in Italia, che penso non sia mai arrivata. Abbiamo in studio il primo album degli Hot House Flowers, che è del 1988, si intitola People, e fu un esordio di grandissima forza, e mi ricordo anche il tour con Liam, che cantava sempre scalzo. It was always barefoot on stage. Yeah, he's a bit of a hippie. Yes, it was. But a very handsome hippie. Sì, dice, era una specie di hippie, ma un hippie molto attraente. In effetti aveva anche, diciamo, un discreto seguito fra il pubblico femminile per questa sua caratteristica fisica. E questo era il singolo, una canzone che all'epoca ebbe un grande successo, si intitola Don't Go. Blu Radio Veneto Rock. And the sun is shining down on the blossoms in the avenue. There's a buzzing fly hanging around the bluebells and the daisies. There's a lot more love in her left in this world. Don't go, don't leave now, now, now. While the sun is smiling, stick around, laugh a while. And I lie warm on soft sandy beaches in my. My toes are submerged in the water, and it feels good. Children playing, building castles on the shoreline, like a painting that I love and Lord. It feels so fine. Don't go, don't you down, now, now. While the sun smiles, stick around that for a while, yeah. Blue Sirocco blowing warm into my face. The sun is shining on the underside of the bridges, and the cars going by with smiles in the windows. There's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat keeps telling me, look, it's on its way. Yeah, there's a black cat lying in the shadow of the gatepost, and the black cat tells me, look, it's on its way. Don't go, no, don't leave it now, now, now. While the sun smiles, stick around, laugh a while, yeah. stick around and laugh a while, yeah. Oh, no, yeah. No. I can hear you calling out now, now. I don't want to belong, want to belong. No, no, no, no. While the sun smiles, stick around and laugh a while, yeah. Hold it louder, louder. Radio Veneto. Rockwave, l'onda del rock. Don't Go, Hot House Flowers, appunto più di 20 anni fa, ma ancora una bellissima canzone da questo album, People. Una volta c'erano i giradischi, praticamente c'era il singolo e in questa radio è stato messo su un sacco di volte, è un pezzo che andò in classifica in Italia e ebbe un grandissimo successo, una volta. This was a hit also in Italy. Oh, pretty good, yes. Pretty good. Top 10, I think. When I was with the with Ntua Nuwa, we did the first single with Mother Records, which was the U2 label. Yes. Ntua Nuwa was the first signing, and Hot House Flowers were the second band we signed. Il loro primo singolo come Ntua Nuwa fu per l'etichetta che fondarono gli U2 per lanciare giovani band irlandesi, la Mother Records. E era un singolo appunto in cui una facciata era occupata da un brano degli Ntua Nuwa e l'altra dagli Hot House Flowers. In quegli anni dall'Irlanda arrivava una quantità di musica impressionante, sembrava che gli irlandesi non facessero altro che suonare, non so se ti ricordi, Maurizio. Sì, certo. Mi ricordo in trasmissione qua delle volte su, che so, 15 pezzi ne avevo 6 o 7 dall'Irlanda. Dall'Irlanda, esatto. Back in those times we had the feeling that in Ireland all the people were just playing music because every week there was a new band we were very poor, we couldn't afford to do anything else, so we made music. Perché erano molto poveri e quindi dovevano fare questo per cercare di sopravvivere, l'unica cosa. Era veramente impressionante perché un'isola tutto sommato così piccola, con così pochi abitanti, aveva una scena musicale veramente vivacissima. For such a small island, I mean, yes, the quantity and quality of the music that was coming, yeah, from, because I think because the what happened was a lot of the bands wanted to be signed by the international record labels, and they were all based in the UK and Britain, and the UK, they never really looked towards Ireland for bands or artists. You had to break a band in the UK first before they would be interested in if you were an Irish band. So all of a sudden they realized there was bands like Thin Lizzy, the Boomtown Rats, U2, some of the biggest bands in the world at the time when they came out. So their attention turned to Ireland and they realized that there was a lot of talent there. So all of a sudden it was the thing to do was to look to Ireland for new talent. I mean, you had all the bands that came from Liverpool at the time, Echo and the Bunnymen, the huge amount of bands all around that time from Manchester, there was a lot of bands. And the record companies wanted their Irish band, if you understand what I mean. Sì, praticamente a quell'epoca per le etichette discografiche era importante avere delle band che provenissero dall'Irlanda, perché si sapeva che c'era una scena musicale molto, molto ricca e vivace. Alcune band irlandesi come i Thin Lizzy o i Boomtown Rats, e successivamente poi naturalmente gli U2 diventarono famose non solo in Inghilterra ma anche nel resto del mondo, e quindi i talent scout andavano a Dublino a fare la spesa. È un po' quello che successe qualche anno dopo a Seattle, dopo il successo mondiale di vari gruppi grunge. The same thing happened in Seattle after Nirvana and Pearl Jam. Absolutely. Every band in Seattle had a deal, had a contract with a major. The thing with the record companies, they're not very, they don't have good foresight. If one label gets it right, the rest follows suit. Doesn't mean that all the other bands that have come after are better. Yes. But you know, they're a bit like that. That's why nowadays the music industry is better, because artists and bands can do it for themselves and they're not dependent on the record companies. Geographic area also. Yeah, exactly. Si dice che appunto all'epoca le case discografiche avevano anche poca fantasia, cercavano un po' di seguire le mode del momento, e ad esempio avere una band irlandese era importante. E adesso invece, con il mondo più aperto che c'è, alla fine queste divisioni sono state cancellate, sorpassate, diciamo, e le band possono farsi conoscere anche fuori dal paese, anche senza una casa discografica. Let's talk about the song that you want us to play. Yes, it's my favorite song. Un'altra canzone che vuole farci ascoltare. Yeah, it's the Frames, an Irish band called the Frames. Glenn Hansen was the main man in the Frames. In fact, Dave Hingerty plays drums with Audio Kiss. Was the first original drummer with the Frames. But there's a track on this called Revelate, and I'd like to dedicate it to some people I know. Wait a minute, please. Sorry. La traduzione, perché i Frames sono una band irlandese guidata da Glenn Hansard. E il batterista originale di questa band ha suonato nell'album dell'Audio Kiss. In Italia i Frames non sono molto conosciuti, ma in Irlanda sono molto famosi. E poi il cantante Glenn Hansard, insieme a Marchetta Iglova, è diventato famoso vincendo l'Oscar per la canzone sonora del film Once, di cui stavamo parlando adesso, un film bellissimo di cui abbiamo parlato molte volte in questa emittente, e lui vuole dedicare questa canzone. Thank you. I'd like to dedicate this to Henk, Val and Vika, who are listening in Eindhoven in Holland, and I'd like to dedicate it to Yolanda, Nikki and Laura, who are listening in Dublin, and LCU who's listening in Belgium, all listening on the web to Blue. Ok, allora ha fatto la dedica a delle persone sparse un po' in giro per l'Europa che dovrebbero essere in ascolto tramite il nostro sito internet, sullo streaming del web. E alcune di queste persone sono in Olanda, perché Jack ha sposato una donna olandese, fra l'altro. So you were your parents-in-law from Holland, yes, right? Yes, my wife is from Eindhoven in Holland, so some family members and some friends in Belgium. Ok, la canzone si intitola Revelate, la sentiamo dalla una versione dal vivo, dall'album appunto live, intitolato Setlist, registrato a Dublino nel novembre del 2002. Sono i Frames. Blue Radio Veneto Rock. Yeah. Rock Wave, l'onda del rock. Revel 8, veramente potentissima questa versione di questa canzone fantastica dei Frames, da Set List, appunto questo album dal vivo. E Frames, che in Irlanda sono veramente molto molto conosciuti. Torniamo a parlare degli Audio Kiss, dei nostri ospiti di questa sera qui su Blu Radio Veneto per Rock Wave, e del loro album che, vi ricordo, si intitola Really Kind of Moving. E adesso ci ascolteremo una canzone che chiude l'album, si intitola Baba Boom, un titolo un po' strano, c'è una storia dietro questa canzone. Also the title is quite strange. Yeah, like Robert. It's not Baba Riley. No. It will probably take about 3.5 hours to explain. Can you make it shorter? Make the long story short. It's a song about things in life that sometimes are important at the time, but you forget, and maybe small things that you have very strong memories, but something which at the time was very small, and it's hard to work out what things in life you will remember. Okay. So there's a theme of echoes, and what things represent echoes, and Baba Boom is kind of a play on words that express an echo. Okay, Baba Boom è un gioco di parole che esprime come un eco, e è una riflessione la canzone sul fatto che alcuni avvenimenti che al momento ti sembrano molto importanti, poi con gli anni scompaiono dalla tua mente, mentre delle cose apparentemente insignificanti ti si piantano nella testa e te le ricordi anche dopo moltissimo tempo, magari senza renderti conto del motivo. I hope I can translate. That was perfect. Good. Ok, mi garantisce che la mia traduzione è stata perfetta, non posso che dargli ragione. E allora adesso ci ascoltiamo appunto questa canzone che si intitola Baba Boom. Blu Radio Veneto Rock. So let's walk these fields together. Let's mark the sands on the shore. And when we've drained our limbs in the weather, we hope to come on back for more. A tempest can change the horizon. A temper has more to reveal. What you gonna do? Ba ba ba ba boom. Are you blowing through your sentimental fears? Check out life on the headland, and check in with all that you feel. A window is there to remind you it's closed and you gotta just leave. A red hill made to discover, downhill a door to success. The echoes are not so permanent as they wept the way they only know best. What you gonna do? Ba ba ba ba boom. Are you blowing through your sentimental few? Where are they going to? There's reminiscent you. Answers is all that it owns, and when it's time to select that answer, the echoes can only use one. What you gonna do? Ba-ba-ba-ba-boom. Are you blowing through Rock Wave, l'onda del rock. Allora, questo era Baba Boom e stavamo parlando con Jack, del musicista che suona la chitarra nell'album, ma che è anche il coproduttore insieme agli Audio Kiss, che si chiama Connor Brady. Connor è un musicista che ha suonato con tantissimi altri gruppi musicisti, è stato anche a Padova anni fa a accompagnare Mary Cullen in un indimenticabile concerto al Teatro Verdi. So Connor was the right man for you to produce the record, right? Yes, I'd worked with Connor before in a band many years ago called Death Actor. We were a three-piece psychedelic funk band, would you believe? psychedelic funk, very wild, very crazy music. Ha suonato con Connor parecchi anni fa in una band chiamata The Factor. Era un trio che faceva psychedelic funk. Do you have any recording of it? Probably somewhere. He'd never let you hear it. Well, you never know. You pay me enough, I might. Gli ho chiesto se c'è qualche registrazione, ma sembra che bisogna pagarla a caro prezzo, se dovesse esistere. So, when having played with Connor, and I've worked with Connor many times on different things and different sessions and etc., just said that he'd be a good man for the job, for the production with us in Audio Kiss for the album. So we got him to come in and co-produce. Si è detto, appunto, avendolo conosciuto, sapendo che tipo di musicista era e che tipo di esperienza aveva, hanno pensato subito a lui come il produttore ideale per questo progetto. And was it hard to make the record? È stata dura fare il record, or was it, you know, job, fast job? È stato un lavoro lungo, difficile? It was reasonably quick by certain standards. It was reasonably quick. We weren't a long time in the studio recording, but we, you know, we listen to the album now and we say, oh, maybe we should have done this and we should have done that. We're typical musicians. We're never happy, you know. Sì. So yeah. Sì, ha detto che alla fin fine il lavoro è andato abbastanza liscio. Sono stati in studio un buon periodo di tempo. Naturalmente, riascoltando il disco adesso, ci sono delle cose che avrebbero voluto fare in maniera diversa, ma chiaramente credo che questo lo dica qualsiasi musicista, anche se ha fatto il disco più grande capolavoro. Certo. C'è sempre una cosa che poi col senno di poi vorresti aver fatto in maniera diversa, ma alla fin fine un disco è anche una fotografia di quello che la band è in quel momento. All in all, a record is like a picture of the band in that period of time. Yes, yeah. And yeah, of course in the future you're going to do something. Yes, you're going to mature different and grow and change. Yeah, sì. E appunto poi si cambia, si cresce. Andiamo con un'altra canzone che è quella che dà il titolo proprio all'album. Si intitola A Really Kind of Moving. Do you want to say something about this song? C'è qualcosa? Why is the title track? Perché avete scelto questa per il titolo dell'album? Ok, scusate, c'era un piccolo problema col tecnico. Everything's fine. is there a reason why you choose this song as a title track? Or? No particular reason. I think between the three, it was we all thought that it was probably the best one to go with. I think all thought the title might have been a good title as well. So both the song and the title, I think, kind of fit our needs, and I think that's why there was no other reason behind it. Yeah, okay. The sentiment behind the song. Yeah. Tutti e tre pensavano che fosse forse la canzone migliore dell'album, oltretutto il titolo si adattava molto bene così a dare il nome anche all'album, per cui è stata una scelta molto, molto facile. Really Kind of Moving, Audio Kiss. Blu Radio Veneto Rock. Hey. L'onda del rock. Bene, siamo giunti quasi alle 23:30, abbiamo ancora mezz'ora per chiudere questo lungo e penso affascinante appuntamento con la musica dal vivo nei nostri studi. Abbiamo ascoltato Really Kind of Moving, questa bellissima canzone che possiamo già anticipare chiuderà poi il nostro, la nostra trasmissione con, venendo suonata dal vivo appunto dagli Audio Kiss, la risentiremo quindi. E adesso facciamo un altro momento live con un'altra delle canzoni che ci propongono qui in studio gli Audio Kiss insieme naturalmente a Valentina, sono tutti pronti. This song is Been to Mars, right? Yes, yes. Questa canzone si intitola Been to Mars, ovvero sia sono stato su Marte, but you didn't went to Mars really, right? Oh, I have done many a time. Oh, okay. It's a very dry place. It's not very nice. They've no red wine. They don't have any pasta. Rob comes from a fishing. He's coming from Mars. Yeah, he wrote it about me. Ah, ok, la canzone è stata scritta da Robert pensando a perché sembra che lui sia stato davvero su Marte. It's really been to Mars. So you We must still there, well, actually. ci sono ancora. A summary of his life to date, you know, and we've just listened to some of his history of where he's played and the bands he's played with. In my eyes, that was Mars. Where I was sitting on a small piece of Earth, where Jack had been, was effectively to Mars. Okay. And back. Sì, perché dice appunto che negli anni in cui Robert si occupava di altre cose, stando a casa a Dublino, Jack girava il mondo con band, suonava dappertutto, quindi ai suoi occhi era come se fosse stato davvero su Marte, nel senso appunto come un posto fuori. Questo mi ricorda un po' una canzone di Johnny Cash che si intitola I've Been Everywhere, in cui elenca tutte le città in cui ha suonato, una specie di guida geografica agli Stati Uniti, ma su Marte nemmeno Johnny Cash c'è stato. It's allora, also the first song that we ever actually recorded in as a demo when we got together first. It's the very first song we actually put down on tape. Questa è stata anche la prima canzone che hanno suonato insieme e registrato, la prima registrazione insieme che hanno realizzato come demo prima appunto della realizzazione dell'album. Allora ci ascoltiamo Been to Mars, sono gli Audio Kiss qui sempre su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto Rock. I was a place of sand and sea to discover. But since the tides, they're calm and gone, I know the winds are blowing strong, and I have seen the stars. My heart won't stray from wanting. And I have been to Mars. Should I come back now to my calling? When time became, it took the wind from the willows, doors to replace the wide open windows. I still said delving into lists of one or another. Versione strepitosa, bisogna dirlo, versione strepitosa dal vivo. Great. Yes, strepitosa is more than great. Oh, okay, okay, okay, right, okay. So to upper, thank you, thank you, to upper very level. Much. Notavo che molti musicisti irlandesi sono estremamente legati alla tradizione musicale della loro isola, dai, diciamo, dai quelli che hanno creato la musica irlandese come Van Morrison, ma anche Liu Chun, quindi soprattutto nei primi dischi hanno fatto delle cose di questo genere, poi tutte le altre band hanno delle influenze folk. Gli Audio Kiss mi sembra che abbiano deciso di intraprendere un'altra strada. Most of the Irish musicians, even if they play rock music, they show explicitly that they are linked to the musical tradition of their island. You know, folk music, traditional fiddle. I think it's always. I think when being Irish, it's always. I grew up with my father was a singer, and I think most Irish families can say that. Maybe it's a dying breed now, but for my age group, there was always a sing song in the house. Parties would happen, and the music would be turned off, and everybody would sing a song. If you didn't. After the beers or before even? Even before the beers. Anytime. Once there was a gathering before, together. During and after. And after, yeah. Ok, ha detto che come in Irlanda è sempre stata una tradizione quella di cantare anche in famiglia. Suo padre era un cantante e nelle riunioni fra amici o in famiglia è normale cantare. Io ho chiesto se questo succede dopo aver bevuto, ma sembra che succeda prima, durante e dopo. Quindi è proprio una cosa tipica. Però mi sembra che loro nella loro musica hanno voluto appunto intraprendere una strada diversa. I have the feeling that you wanted to not to follow this way in audio kiss music. You want to be more, I don't know, maybe international. Well, that would be nice. It would be nice. Be very nice. I mean, the Irish people are Celts. We're descended from the Celts, and we, as a nation, that we used to. Yeah, quiet in the cheap seats, please. questa non posso tradurla, è un po' complicata. C'era qualcuno che faceva rumore, ha detto di non fare rumore quelli che sono nei posti economici. There's a party going on outside in the control room. They have more beer than we have. Yeah, yeah. Sembra che il nostro tecnico si sia appropriato di qualche Bring birra. Bring the vino in here. But anyway, the Irish people have always created music. I think it's instilled in their blood. It's in their makeup, in their being. And what we have tried to do with Audio Kiss is just bring some of that sort of passion for music that we have. If our record sounds international, it's not a contrived thing. It's just something that it's what we like. It's how we like to play. It's the music we listen to, it's how we live our lives, it's everything, and it just comes out that way. It's not a contrived thing, you know what I okay. mean? Okay. It's not made on purpose, you mean? No, happened. Okay. Yeah. Ha detto che il disco è venuto così perché questo è quello che si sentivano di fare, non c'è dietro nessun progetto di suonare in una certa maniera, è nato spontaneamente, diciamo, da quello che loro si sentivano. Questo nonostante appunto il fatto che gli irlandesi sono discendenti dei Celti, fin dai tempi molto antichi si sa che i Celti usavano molta musica, anche nelle loro cerimonie religiose, e quindi per un irlandese la musica è parte della vita, è una cosa che esiste. For Irishmen, music is like water or air, it's something that you have around. Even if you don't play an instrument and you can't sing, you still sing. that's the way it is in Ireland, you know. Like Robert. Just, like Robert. Yes. And he's fantastic at singing in the note of E. He's very good at it. In your own head, you think you're great to sing. In irlandese, anche se non sa suonare o cantare, comunque canta lo stesso. Allora io ho fatto appunto l'esempio di Robert e Siobhan ha detto che lui canta benissimo nell'unica nota che riesce a cantare. But the trick is to have a song that everybody knows, so you just start it and then everybody else sings it. Okay. So that's the trick, you know. Il trucco, ha detto, è cantare una canzone che tutti conoscono, così tu cominci e poi tutti gli altri si uniscono e so you are lost in the... Yeah, and everybody goes, oh, music. You're brilliant, and you go, thank you, and you only know two lines. Okay. Appunto, anche se si conoscono solo le prime due strofe, le prime due parole, una volta che tutti cominciano a cantare, tu sei quello che ha cominciato la cosa e quindi fai anche la tua bella figura, come una scena che abbiamo visto in molti film irlandesi, se vogliamo. È un po' uno stereotipo, ma pare che sia reale. Stereotypes comes out from something that really exists. I mean, because in the movies we always see Irish people singing in pubs. And it is like that. It's veramente very true. Okay, but Italians are not all like you see in the movies. But you don't all sing opera and you don't all have violin cases. That's no, ecco, appunto, i film sugli italiani invece sono un po' più così imprecisi, perché noi non cantiamo tutti l'opera e non andiamo in giro con un violino in tasca. Abbiamo qui un altro disco di provenienza irlandese di una grandissima cantante che è Sinéad O'Connor. Tu hai l'edizione ampliata, anche io ho l'edizione piccolina. No, l'edizione sono solo 6 brani. Io avevo solo l'edizione con 3 pezzi probabilmente, poi è uscita questa cosa. Si intitola Gospel Oak e Siobhan ha detto appunto che ama molto questa canzone. You say that you really like this song. Oh, I love it. I love her version of it. Yeah, it's beautiful. Questa canzone è He Moved Through the Fair. L'originale sarebbe She Moved Through the Fair, ma chiaramente cantandola una donna cambia il soggetto. È una canzone tradizionale che è stata fatta da penso centinaia di musicisti, e quindi credo sia particolarmente difficile riuscire a fare una versione che spicca. When a song is being played by hundreds of people, it's really hard to get over them. I mean, to be recognized as one of the best versions. So I think this is a sign. I just think a good song stands to itself, and it doesn't matter who does it. Because it's the song that actually is the gift that's there, you know. It's a particular form of singing that is an Irish form of singing called Seanó's singing. I love it, which it's very haunting in its performance and how it's done. And Sinéad is particularly good at that. She really is, you know. Questa è una forma di canto tradizionale irlandese che è molto difficile da tradurre. Haunting, you said, quasi spettrale, è qualcosa che viene. Is that like it's coming out from fog, or yes, it has this kind of. It's just a. It's an eeriness, sort of a quality. Technique to it. Of holding the note a little bit longer. Sorry. Speak together. I'm lost. You go, Jack. It's like it's almost like a sadness. It's usually Siobhan's songs and are usually on sad themes. So she moves through the fair. The guy is madly in love. He won't be able to be with her. It's you know. So there's usually a sad when you lost someone or something. Yes, it has that. Yeah. Sì, sono canzoni appunto queste tradizionali che parlano spesso di grandi perdite, di delusioni amorose, cose del genere, e quindi il modo di cantarle è molto importante che sia il più coinvolgente possibile. Allora ci ascoltiamo la versione di Sinéad O'Connor di He Moved Through the Fair. Blu Radio Veneto Rock. My own love said to me, my mother won't mind, and my father won't slight you. Thank you. Del rock. Volevo solo ricordare, questo disco era uscito per Natale in Italia, questo è il motivo, mi ricordavo, è uscito per Natale e l'avevano proposto come disco natalizio, non è assolutamente un disco natalizio, però era uscito per Natale. Sì, non capendo il testo magari si potrebbe chiaramente pensare. Sì. Bene, siamo quasi alla fine di questo appuntamento, sono le 23:49 minuti, abbiamo ancora due canzoni, una dall'album e una dal vivo per chiudere questa magnifica serata con i nostri ospiti, e direi di andare subito con loro con la canzone dell'album che si intitola One Life for Now, e dopo questa canzone ci risentiremo per i saluti finali e per l'ultimo brano che suoneranno ancora dal vivo per noi. Blu Radio Veneto Rock. That you always show, being here together, a time and a place. Venus is a planet that's way out in space. So can Rock Wave, l'onda del rock. Bene, siamo verso la fine, facciamo un breve riassunto. Con noi questa sera ci sono gli Audio Kiss per presentarci il loro album intitolato Really Kind of Moving, un bellissimo disco, l'avete sentito, non occorre che mi dilunghi a spiegarvelo, a raccontarvelo. E dobbiamo ringraziarli per essere stati qui con noi, ringraziare naturalmente anche Valentina che si è unita a loro e fra l'altro insomma, abbiamo saputo adesso che ha avuto veramente poco tempo per imparare queste canzoni, quindi è stata fondamentale, c'è niente da dire. I say Valentina, fantastico. Ok. E ringraziamo anche Vannuccio per la sua partecipazione, per la musica che ci ha portato. E tu hai qualche annuncio da fare? Sì, la prossima settimana ci sarà un musicista di Vannuccio, vero Valentina? O ci sarai te che suonerà con la band. Valentina è una band di cover di musica particolare. Vogliamo anche dire il nome? Sì, vai. Alchemic. Ecco, Alchemic è una cover di... Siete quante ragazze? La cantante è un'altra ragazza, poi ci sono i ragazzi. Batteria, basso, un'altra chitarra. Quindi un pseudo acustico. Beh, non necessariamente, anche cattivo quando è ora. Cattivo quanto è ora, perfetto. Hanno i ragazzi per fare i lavori di bassa una nuova. Esattamente. Allora, i ringraziamenti. Thank you for being with us. Thank you for having us. It's been wonderful. Delighted to be here. And I wish you there will be another chance in the future to have you back with a new record. We'd love to come back. Quando ci sarà un nuovo disco, Spring 2010. you are already working on a new record, right? Yeah. Yes. Well, we've got a lot of songs done already. We have a few songs done already. Yeah. Quindi stanno già lavorando a un nuovo disco, per cui non saranno probabilmente tempi lunghissimi per avere un nuovo album e quindi magari l'occasione di un'altra visita di Siobhan, Jack e Robert degli Audio Kiss. E vi ricordo, avete ascoltato Rock Wave su Di Radio, Veneto. Ogni tanto i nomi ritornano alla mente. Sono un po' stanco dopo questa lunga diretta. Ringraziamo Michele Tosoni in regia, Roberto Baldi che ha curato le telecamere, il progetto creato da Alberto Prisco, e grazie ancora a Vannuccio che li ha portati materialmente. E vi ricordo che Rock Wave ritorna tutte le sere dalle 22:30 alle 24, questo è l'orario normale. Robert mi dice di ricordarvi, se volete informazioni sample audio e altre cose sulla band, il loro sito web è solito www.audiokissmusic.com, è un'unica parola senza interruzioni, audiokissmusic.com. E adesso loro ci augurano la buonanotte con questa bellissima canzone che dà il titolo all'album, Really Kind of Moving, gli Audio Kiss dal vivo su Blu Radio Veneto. Buonanotte a tutti da tutti noi dello studio e grazie ancora ai nostri amici musicisti. Blu Radio Veneto Rock. Well, it's a really kind of moving and really out of state. Did I ever see the fooling and the reversible I take from the easy kind of moving and unbelievable mistake, and to you, and you're playing me the fool. It's really kind of true, and the teacher's out of school from that easy kind of moving. It's really so true. Rockway, l'onda del rock.